Capitolo 29. Il pettine a denti fitti. Il peggio arrivò dopo cena. Perlomeno prima lei e Jenny erano sole, ora c'era una bara onda. George Andrew le afferrò la mano e prima che potesse sfuggirgli la trascinò attraverso una pozzanghera di fango. Dee, in vita sua, non era mai stata trattata in quella maniera. Jem e Walter la prendevano in giro, come pure Ken Ford, ma non aveva mai conosciuto dei ragazzi come quelli. Kurt le offrì della gomma da masticare appena levata dalla bocca e si infuriò quando lei la rifiutò. Ti metterò addosso un topo vivo, gridò. Pettegola sputa sentenze. Arrogante, hai una femminuccia per fratello. Walter non è una femminuccia, disse Dee. Era alquanto scioccata per lo spavento, ma non voleva sentire che Walter venisse insultato. Lui scrive poesie. Sai cosa farei se avessi un fratello che scrive poesie? Lo annegherei come si fa con i gattini. Parlando di gattini, ce n'è un sacco di quelli selvatici nella stalla, dichiarò Jen. Andiamo a cacciarli fuori. Dee semplicemente si rifiutava di andare a cacciare gatti con quei ragazzi e quindi lo disse. Oh, abbiamo un sacco di gattini a casa, ne abbiamo 11, disse con orgoglio. Io non ci credo, gridò Jen. Non li avete, nessuno può avere 11 gattini, non è possibile avere 11 gattini. Beh, una gatta ne ha avuti 5 e un'altra 6. E comunque non vado nel fienile, sono caduta giù lo scorso inverno dall'alto del fienile di Amy Taylor. Sarei morta se non fossi caduta su un mucchio di pula. Beh, io una volta avrei caduta dal nostro fienile se Kurt non mi avesse afferrata, affermò Jenny imbronciata. Nessuno aveva il diritto di cadere dai fienili a parte lei. Di Blythe, che avventure, che impertinenza da parte sua. Avresti dovuto dire sarei caduta, disse Di. E da quel momento tra lei e Jenny tutto finì. Ma in qualche modo doveva passare la notte. Restarono alzate fino a tardi, dato che nessuno dei Penny mai andava a letto presto. La grande camera da letto nella quale Jenny la portò alle 10:30 aveva due letti. Annabelle e Gert ne stavano preparando uno per loro. Dee guardò l'altro. I cuscini avevano un aspetto squallido. La trapunta aveva un estremo bisogno di essere lavata. La carta, la famosa carta da parati con i pappagalli, era tutta una crepa e anche i pappagalli non avevano niente di pappagallesco. Sul sostegno del letto c'era una brocca di granito e un catino di latta pieno a metà d'acqua sporca. Non avrebbe mai potuto lavarsi la faccia in quell'acqua. Beh. Per una volta sarebbe dovuta andare a letto senza lavarsela. Almeno la camicia da notte che zia Lina aveva lasciato per lei era pulita. Quando si alzò, dopo aver detto le sue preghiere, Jenny si mise a ridere. Ma come sei antiquata? Eri così buffa e santa mentre dicevi le tue preghiere? Non sapevo che c'è ancora gente che prega. Pregare non serve a nulla. Per cosa le dici a fare? Devo ottenere la salvezza della mia anima, disse Dee, citando Susan. Non ho alcun'anima io, la derise Jenny. Forse no, ma io ce l'ho, disse Dee, erigendosi con dignità. Jenny la guardò, ma l'incantesimo degli occhi di Jenny era rotto. Dee mai più avrebbe ceduto alla sua magia. Tu non sei la ragazza che pensavo che fossi, Diana Blythe, disse Jenny, tristemente, come se fosse stata vilmente ingannata. Prima che Dee potesse rispondere, George Andrew e Kurt irruppero nella stanza. George Andrew indossava una maschera, una cosa orribile, con un enorme naso. Dee urlò. Smettila di strillare come un maiale incastrato in un cancello, ordinò George Andrew. Ci devi dare il bacio della buonanotte. Se non lo fai, ti chiudiamo in quell'armadio che è pieno di topi, disse Kurt. George Andrew avanzò verso Dee che indietreggiò mettendosi a gridare nuovamente. Il terrore per quella maschera la paralizzava. Sapeva bene che dietro c'era solo George Andrew. Di lui non aveva paura, ma sarebbe morta se quella terribile maschera si fosse avvicinata. Ne era certa. Proprio mentre quel terribile naso sembrava toccarle la faccia, inciampò in uno sgabello e cadde all'indietro, battendo la testa sul bordo tagliente del letto di Annabel. Per un momento rimase stordita e stesa sul pavimento con gli occhi chiusi. È morta! È morta! Fece Kurt tirando su col naso e cominciando a piangere. Oh, che bastonate ti daranno se l'hai uccisa, George Andrew, disse Annabel. Forse sta fingendo, disse Kurt. Mettiamogli addosso un verme. Ne ho qualcuno in questo barattolo. Se ci sta ingannando, questo dovrebbe farla rinvenire. Dee sentì, ma era troppo spaventata per aprire gli occhi. Forse sarebbero andati via e l'avrebbero lasciata sola se avessero creduto che era morta. Ma se le avessero messo un verme addosso. Pungila con uno spillo. Se sanguina, lei non è morta, disse Kurt. Uno spillo lo poteva sopportare, ma non un verme. Non è morta, non può essere morta, sussurrò Jenny. L'hai solo spaventata e lei è svenuta. Ma se rinviene le sue grida si sentiranno ovunque e arriverà lo zio Ben che ci bastonerà senza pietà. Ah, vorrei non averle mai chiesto di venire qui. Che razza di fifona! Pensi che potremmo portarla a casa prima che rinvenga? Suggerì George Andrew. Oh, se solo lo facessero, pensò Dee dentro di sé. Non possiamo, non con tanta distanza, disse Jenny. È solo un miglio attraverso i campi. Se ciascuno di noi prende un braccio o una gamba, tu, Kurt, io e Annabel. Nessun altro oltre ai Penny poteva concepire una tale idea o realizzarla se voleva. Ma erano abituati a fare tutto ciò che la loro mente concepiva ed essere bastonati dal capo della famiglia era una cosa da evitare se possibile. Papà non era molto esigente con loro fino a un certo punto, ma passato quel limite, buonanotte. Se rinviene mentre la stiamo portando, dovremmo solo tagliare la corda, disse George Andrew. Oh, non c'era il minimo pericolo che Dee rinvenisse. Tremava per il piacere quando i quattro la sollevarono da terra. Andarono in silenzio giù per le scale, scivolarono fuori di casa, attraversarono il cortile e al di là del lungo campo di trifoglio, oltre il bosco, giù per la collina. Per due volte la misero giù per riposare. Ora erano abbastanza sicuri che era morta e tutto quello che volevano era riuscire, senza essere visti, a portarla a casa sua. Se Jenny Penny non aveva mai pregato in vita sua, ora stava pregando che nessuno del paese fosse in piedi. Se fossero riusciti a portare a casa Dee Blight, tutti avrebbero giurato che aveva avuto così tanta nostalgia di casa prima di andare a letto che aveva insistito per tornarci. Quello che era successo dopo non era affar loro. Dee osò aprire gli occhi una volta mentre quelli si stavano mettendo d'accordo su quella versione. L'addormentato mondo che la circondava le era totalmente estraneo. Gli abeti erano scuri, alieni. Le stelle ridevano di lei. Non mi piace quel cielo tanto grande, ma se riesco a resistere solo ancora per un po' sarò a casa. Se scoprono che non sono morta, mi lasceranno qui e io al buio da sola non riuscirò mai a tornarci. Dopo aver lasciato Dee sulla veranda di Ingleside, i Penny scapparono come dei matti. Dee non osò tornare subito a vivere. Alla fine, però, si azzardò ad aprire gli occhi. Sì, era a casa! Sembrava quasi troppo bello per essere vero. Era stata una bambina molto, molto cattiva, ma era sicura che non lo sarebbe stata mai più. Si mise a sedere e Gamberetto arrivò furtivamente su per i gradini e si strofinò contro di lei facendole fusa. Lo strinse a sé, che bello! Accogliente e amichevole era! Credeva che non sarebbe riuscita ad entrare. Sapeva che Susan chiudeva tutte le porte quando papà era via e non osava svegliarla a quell'ora, ma non le importava. La notte di giugno era abbastanza fresca, ma si sarebbe coricata nell'amaca, accoccolandosi vicino a Gamberetto, sapendo che vicino a lei, dall'altro lato di quelle porte chiuse, c'erano Susan, i ragazzi, Nan e la sua casa. Com'era strano il mondo col buio. Stavano tutti dormendo. Solo lei era sveglia. Le grandi rose bianche dell'arbusto vicino agli scalini sembravano piccoli visi umani durante la notte. L'odore di mente era come un amico. C'erano i bagliori delle lucciole nel frutteto. Dopotutto lei avrebbe sì potuto vantarsi di aver dormito fuori tutta la notte, ma non fu così. Due scure figure arrivarono attraverso il cancello e avanzarono per il sentiero. Gilbert fece il giro per andare sul retro ad aprire, forzandola alla finestra della cucina, ma Anna, salendo gli scalini, rimase attonita vedendo quella povera piccola creatura che stava lì seduta col gatto tra le braccia. Mamma, oh mamma! Lei era al sicuro tra le braccia della mamma. Dì, tesoro, che cosa è successo? Oh mamma, sono stata cattiva, cattiva, ma mi dispiace tanto e avevi ragione. E Gammy era così terribile, ma pensavo che non sareste tornati fino a domani. Papà ha ricevuto una telefonata da Low Bridge. Domani devono operare Mrs. Parker e il dottor Parker vuole che sia presente anche papà. Così abbiamo preso il treno della sera e siamo saliti a piedi dalla stazione a qui. Ora dimmi. E l'intera storia fu raccontata tra i singhiozzi nello stesso tempo che Gilbert impiegò ad entrare e aprire la porta d'ingresso. Pensava di aver fatto tutto senza rumore, ma Susan aveva orecchie che sentivano lo squittio di un pipistrello quando si trattava della sicurezza di Ingleside e scese zoppicando giù per le scale con una vestaglia sopra la camicia da notte. Ci furono esclamazioni, spiegazioni, ma Anna le interruppe. Nessuno ti sta accusando, Susan cara. Lei è stata molto cattiva, ma lei lo sa e penso che abbia avuto la sua punizione. Mi dispiace di averti disturbata. Devi tornare subito a letto e il dottore verrà a vedere la tua caviglia. Non ero addormentata, signora dottora cara. Pensi se riuscivo a dormire sapendo dove stava quella benedetta bambina? E caviglia o non caviglia, vado a preparare per entrambi una buona tazza di tè. Mamma, disse Dee dal suo bianco cuscino. Papà è crudele con te. Crudele? Con me? Perché di? I Penny dicono che lui ti picchia. Cara. Ah, ora sai cosa sono i Penny, quindi capisci bene che non devi più tormentare la tua testolina su tutto quello che hanno detto. Ci sono sempre dicerie maliziose che galleggiano nell'aria da tutte le parti. C'è sempre gente che inventa cattiverie. Non ci devi fare mai caso. Hai intenzione di sgridarmi domani mattina, mamma? No, credo che tu abbia imparato la lezione. Ora vai a dormire, tesoro. La mamma è così saggia, fu l'ultimo pensiero prima che Dee si addormentasse. Ma Susan, mentre si sdraiava tranquillamente nel suo letto, con la caviglia fasciata sapientemente e confortevolmente, diceva a se stessa: Devo cercare il pettine a denti fitti domani mattina e quando vedo la mia raffinata signorina Jenny Penny le darò una spuntata che non dimenticherà. Jenny Penny non ebbe mai la spuntata promessa perché non frequentò più la scuola del Glen. Invece andò con gli altri Penny in quella di Mowbray Narrows, da dove chiacchiere alla deriva riportavano le sue storie. Una di quelle narrava di come una Dee Blight, che viveva nella grande casa Glen St. Mary e che andava sempre a dormire da lei, una notte era svenuta ed era stata portata a casa a mezzanotte, trasportata sulla schiena da lei, Jenny Penny, sola e senza assistenza. Il popolo di Ingleside si era inginocchiato, baciandole la mano in segno di gratitudine. E il dottore aveva preso il suo calesse guarnito con frange e la sua famosa coppia di cavalli grigi e l'aveva riportata a casa. E se c'è una qualsiasi cosa che posso fare per te, Miss Penny, per la tua gentilezza verso la mia amata figlia, non hai che da chiedere. Il migliore sangue del mio cuore non sarebbe sufficiente a ricompensarti. Andrei nell'Africa equatoriale per ricompensarti per quello che hai fatto, aveva giurato il dottore.